se n'anvam, va ser ma filla fillastra. Va ser un pa mare femmena, con te non voglio venir. Vivo te non so niente, sono a verti di tempo. Ma si vuole da cattena, dimmi quello che avevi. Ciao a tutti, è una nuova puntata di Battiture, sguardo di critica radicale al sistema carceri. Si volena, si una rosa compagna, tiene a faccia di zoccola, con te non voglio venire, vivo te non so niente, sono a verti di tempo, ma si vuole da cattena, dimmi quello che avevi. Come ogni mercoledì siamo in onda con la nostra trasmissione sul sistema carceri. Oggi non possiamo prescindere dall'iniziare dalla notizia che, anche in modo un po' anomalo rispetto al solito, è girata molto di più anche sui media mainstream, che è la morte nel CPR di Torino. E abbiamo oggi con noi, per parlarne con noi, un compagno dell'assemblea No CPR di Torino, con un contributo telefonico. Pronto? Ciao, benvenuto qui ai microfoni di Radio Asilo nella trasmissione Battiture. Grazie per essere con noi. Ciao. Ciao. Non abbiamo introdotto granché, è ovvio il motivo per cui tu sei qui oggi, per parlare di quella morte terribile che si è svolta nella notte tra sabato e domenica all'interno del CPR, e ci piacerebbe parlarne non tanto indugiando sui fatti che conosciamo in parte relativamente, su cui comunque si sono spesi abbastanza, dicevo già prima, anche più del solito, i media mainstream hanno in parte seguito la questione, ma ci piacerebbe parlarne anche rispetto alla lotta che poi è nata all'interno e fuori al di là delle mura, e evidenziare anche come questa morte non sia un caso isolato. Sì, giustamente, come hai detto tu, è molto importante anche non rendere un episodio quello che è accaduto tra sabato notte e domenica notte all'interno del CPR di Torino. È importante sottolineare che, come anche abbiamo testimoniato dai racconti dei reclusi all'interno, che è molto importante evidenziare che quotidianamente i ragazzi dentro subiscono delle torture. La gestione del CPR ha anche delle forti responsabilità, e quindi sì, sicuramente già da domenica mattina la notizia del suicidio si è diffusa rapidamente in tutte le aree del centro. I ragazzi, come ci hanno raccontato, non hanno creduto a questa versione fornita dalle forze dell'ordine. Ricordiamo che Musa si trovava nella sezione di isolamento, una sezione denominata ospedaletto, da solo, quindi non aveva compagni di cella in quel momento. Quindi questa versione che sta girando attraverso la questura, attraverso i media, è chiaramente molto condizionata appunto dal fatto che non ci sono testimoni. Ricordiamo che la stessa sezione dell'isolamento è stata luogo della morte nel 2019 di Faisal. Faisal in quel periodo aveva dei testimoni che, ricordiamolo, non sono stati deportati, rimpatriati velocemente per eliminare ogni possibile testimonianza. Quindi domenica mattina i ragazzi delle aree, soprattutto le aree verde e rossa, che hanno avuto la possibilità di parlare brevemente con Musa prima che venisse trasferito senza una motivazione chiara in isolamento, hanno iniziato da subito uno sciopero della fame. Dal quello che sappiamo, attualmente lo sciopero della fame è ancora in atto in molte aree. I ragazzi rifiutano il cibo che gli viene fornito dall'ente gestore. Sicuramente, come dicevamo all'inizio, la morte di un loro compagno ha creato parecchia rabbia, quindi le proteste sicuramente hanno avuto come motivo scatenante appunto il veder entrare in una zona come quella dell'ospedaletto isolata, allontanata ulteriormente dalle aree del centro, il proprio compagno, ma sottolineiamolo anche dalle condizioni che loro vivono quotidianamente sulla loro pelle. La gestione del CPR di Torino è affidata alla multinazionale GEPSA, appartenente al gruppo Engie Energia, che oltre a seguire e a gestire vari servizi, tra cui appunto quello dei pasti, che sistematicamente vengono forniti in condizioni immangiabili dalle testimonianze che ci arrivano dall'interno, molte volte vengono imbottiti di psicofarmaci, i ragazzi dopo aver mangiato si addormentano, sono in uno stato confusionale molto preoccupante. E dal un altro servizio che appunto GEPSA gestisce all'interno del CPR è anche quello sanitario, ovvero paga un personale medico, un personale medico che da quello che ci raccontano i ragazzi è assente in casi anche molto gravi, tra cui ricordiamolo anche in passato casi di persone che sono entrate dentro il CPR di Torino con dei tumori all'intestino, delle lesioni molto gravi, E quindi, ricollegandoci anche a quello che è successo a Musa, una totale assenza anche di cure mediche. Quindi queste proteste sicuramente ricordano quello che noi stiamo cercando di fare in questi giorni, anche dar voce a chi di solito non l'ha, di sottolineare che quello che è accaduto a Musa non è un episodio, non è una fatalità, ma è la normalità all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio, è la normalità nei luoghi di frontiera, che sono le montagne, che sono i mari, che sono le stazioni ferroviarie, che sono le questure e, come abbiamo visto, anche gli ospedali, dove ogni giorno muoiono centinaia di persone. Vorrei anche ricordare che quello che è successo a Musa evidenzia anche come a livello mediatico si è ripercorsa un po' la strada che si era vista, la stessa situazione che si era vista nel 2019 dopo la morte di Faisal, ovvero una passerella istituzionale e politica che ha colto l'occasione di questa tragedia, ha colto l'occasione che in questi giorni i riflettori sono puntati sul CPR per strumentalizzare un po' e secondo noi anche allontanare la percezione della collettività dai veri problemi, dalle tragedie, dalla violenza che lo Stato ogni giorno attua in questi luoghi. Sì. I ragazzi sono molto chiaramente preoccupati per quello che sta succedendo, hanno una percezione a volte un po' difficile anche dovuta all'isolamento che vivono con l'esterno, di come anche le notizie vengono gestite. Senti, faccio un attimo un passo indietro rispetto ad una cosa che hai detto, perché era tutto molto interessante, non ti volevo assolutamente interrompere, ma vorrei ritornare un attimo alla questione dell'isolamento sanitario, che secondo me è un punto molto importante, perché è tutto ciò che sta accadendo, soprattutto ancora di più dall'inizio della pandemia, non solo nei CPR, ma io penso anche alle carceri, ai reparti psichiatrici degli ospedali, eccetera, un po' in tutti i luoghi di reclusione, in cui in questo isolamento sanitario in realtà una grande beffa. Non ha assolutamente, viene chiamato isolamento sanitario, ma non ha assolutamente a che fare con nulla che riguardi la questione sanitaria, ma è solo, diciamo, nebbia con cui si copre in realtà un ulteriore apparato repressivo che si è messo, che era già in parte su, perché in fondo l'isolamento nei centri di reclusione di ogni tipo c'è sempre stato, però era più esplicitamente come forma punitiva. Adesso invece, da quando c'è la pandemia, per le questioni della quarantena soprattutto, viene molto spesso giustificato questo isolamento completo, così come penso che sia anche la sezione ospedaletto all'interno del CPR, ma in tutte quelle aree, anche all'interno delle carceri che sono state create apposta, nonostante l'isolamento sanitario, cioè anche a livello ufficiale da parte dei grandi enti che a livello mondiale si occupano della sanità, è stato equiparato alla tortura, cioè a trattamenti inumani. E in tutto questo, secondo me, la grande beffa è anche che in queste sezioni, così come, correggimi se sbaglio, credo anche ospedaletto, in realtà di personale sanitario non ce n'è proprio, cioè già in generale ce n'è pochissimo, ma nelle sezioni di isolamento sanitario ce n'è ancora meno in generale. E io credo che in questo, e in parte nel periodo trascorso, l'anno scorso, chi ha lottato contro le carceri dall'esterno ha cercato anche di dirlo molto spesso, una grande responsabilità l'ha anche il personale sanitario, perché secondo me, se da personale che nasce per reprimere che è pagato per reprimere, mi aspetto in un certo senso anche questo livello disumano. Il personale sanitario nasce con altro scopo, nasce per curare le persone, per avere cura della loro salute, quindi trovo inconcepibile che negli ospedali, così come nei CPR o nelle carceri, permettano che queste sezioni di isolamento sanitario vadano avanti così. Correggimi se ho detto delle sciocchezze rispetto ad ospedaletto. No, assolutamente. Volevo dare un ulteriore dettaglio perché innanzitutto l'ospedaletto nasce da un'ambiguità direi proprio lessicale, nel senso che viene denominato ospedaletto, ma non ha niente a che fare con l'assistenza o, come hai detto tu, l'isolamento sanitario, che poi è una parte che riguarda appunto il servizio sanitario. L'ospedaletto è una sezione isolata all'interno del muro perimetrale del centro di permanenza per i rimpatri di Torino, composta da 12 celle piccolissime, dove GEPSA è l'ente gestore. Rinchiude, quindi come hai detto tu, isola ulteriormente i reclusi, ma non per motivazioni sanitarie. Ricordo che Mussa arrivava anche se brevemente, dall'ospedale di Bordighera, dove è stato portato subito dopo il pestaggio subito il 9 maggio, dove gli è stato effettuato un tampone, quindi non aveva sicuramente, come dire, non era il caso di isolarlo da quel punto di vista sanitario. Aveva delle ferite, delle lesioni anche abbastanza evidenti da quello che ci hanno raccontato i suoi compagni dell'area rossa, dove lui inizialmente è stato portato. Il trauma facciale che aveva anche gli ha subito parecchi problemi, quindi il fatto che sia stato isolato, sia stato portato in isolamento è sicuramente non chiaro. I ragazzi lo motivano col fatto che fosse proprio per motivazioni proprio punitive. Certo. E invece tornando a un'altra cosa che hai detto prima riguardo l'utilizzo mediatico anche di questa tragedia, mi temo che questo sia in parte anche accaduto al presidio chiamato dai solidali e dalle solidali ieri, perché mi è sembrato di vedere, insomma, che anche lì si siano presentati dei personaggi politici a farsi foto, eccetera, o sbaglio? Ma allora, diciamo che a livello istituzionale, mediatico, c'è stata sicuramente molta attenzione, ma ripeto, come è successo nel 2019 dopo la morte di Faisal. Ricordiamo gli interventi di politici, di consiglieri regionali, appunto, ma anche della Garante nazionale dei diritti delle persone private, della libertà personale, del capoluogo piemontese, come anche l'intervento di parecchie associazioni umanitarie. Nel particolare, ieri si è svolto sì, un presidio alle ore 18 sotto le mura di Corso Brunelleschi, diciamo che gli interventi che sono stati affrontati fin dall'inizio hanno probabilmente dato una chiave di lettura molto chiara, molto precisa del perché era importante trovarsi lì. Quindi, come abbiamo detto, urlare sdoganare la propria rabbia contro quello che è successo a Musa, ma anche per evitare che questo testo diventi un episodio, che se ne parli molto solo in questi giorni e poi l'attenzione cada, che in realtà vada contro in una direzione che vuole anche rendere un po' questi luoghi, che sono dei campi di internamento, sono dei lager per stranieri senza documenti, un po' migliori. Quindi permettimi il termine, forse un atteggiamento un po' più riformistico. Gli interventi iniziali hanno, secondo me, in maniera molto precisa descritto questa chiave di lettura e queste motivazioni, e quindi io, per quello che ho visto, sicuramente all'inizio queste componenti che hai descritto tu erano molto anche forse interessate, ma non ho visto poi una grande partecipazione anche da quel punto di vista. Bene, questo che mi dici è molto importante, anche perché penso che poi lì, al di là della passerella, ci fossero effettivamente delle forze di Solidali che, tra l'altro, ho visto si sono mosse anche nell'immediato, cioè già domenica, giusto, c'è stato in realtà un ritrovarsi immediatamente sotto le mura del CPR. Domenica sì, c'è stato un gruppo di un'iniziativa molto breve, un gruppo di Solidali si è presentato sotto le mura per fare un breve saluto, per urlare e per comunicare anche la propria complicità all'interno. Lunedì mattina martedì mattina, quindi ieri, il giorno del presidio, si è svolto un'altra iniziativa davanti all'ufficio immigrazione qui a Torino, dove è stato distribuito un testo che sicuramente spiegava in primo luogo cosa è successo a Musa, ma anche quello che accade quotidianamente nei luoghi di frontiera, come anche la questura. È stato molto interessante ritrovare alcune persone anche poi al presidio la sera. Vorrei anche ricordare che è molto importante in questo periodo dare anche una certa continuità alle iniziative. Il presidio di ieri non è e non sarà un momento finale, ma è inquadrato all'interno di un periodo che vivremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di mobilitazione, anche per appunto, secondo noi, molto importante, e sfrutterei questi microfoni per farlo, stimolare anche un po' una responsabilità individuale nelle persone, nelle proprie città, nel fare anche delle piccole azioni che ricordino che il CPR uccide, la frontiera uccide, e questa morte di Stato non deve e non deve rimanere un episodio isolato. Sì, molto importante. Io penso quello che avete fatto di essere avanti l'ufficio immigrazione, perché è verissimo quello che dici tu. Le radici sono nella violenza dei confini, delle frontiere, nel problema dei documenti che hanno queste persone che non sono libere di spostarsi, come invece siamo liberi e libere noi. Quindi è importante ricordare anche questo aspetto. Non so se vuoi aggiungere altro. Ma ripeto, rinnovo appunto la chiamata per appunto, in maniera anche così individuale, nelle proprie città, di comunque ricordare anche quello che sta succedendo. Ricordo i nostri canali, l'Assembleano CPR su Facebook, ma anche Radio Blackout, ma come anche Radio Asilo. Quindi è importante in questi giorni non lasciare cadere nelle mani dei media e delle istituzioni la costruzione di questa narrativa, di questo immaginario che, appunto, come hai detto giustamente tu, delega una tragedia all'interno di un singolo episodio senza capire, appunto, che questo è in realtà un quadro molto più generale, che coinvolge l'annullamento delle persone, di un certo tipo di persona, il riconoscimento di una condizione che è quella di essere straniero, povero, senza documento, che non accetteremo mai. Sì, e contro cui, come giustamente dice, è indispensabile lottare tutti e tutte. Io ti ringrazio tantissimo, ogni qualvolta vorrei o vorrete come assemblea aggiungere qualcosa, i nostri spazi sono sempre aperti e grazie, grazie davvero. Grazie. Ciao, grazie alla a voi. Prossima. Ciao. Ciao. Ciao. E allora credo che prima della prossima telefonata, perché in realtà oggi abbiamo anche un altro contributo, sarebbe il caso di ascoltare un po' di musica. E, ascoltiamo un pezzo di un progetto che ci è piaciuto molto, ci è stato segnalato da Faida, è proprio il nome di questo rap anticarcerario. Ascoltiamo il pezzo. Pensieri e parole per chi vive di pensieri e di parole, di pazienza e di speranza, per chi giorno dopo giorno invecchia, rinchiuso in una cella. Pensieri e parole per chi, quando pensa al futuro, vive di sogni che vorrebbero andare lontano, liberandosi nel cielo. Eppure neanche i sogni hanno la facoltà di uscire da questo fazzoletto di terra controllato dal ministero. Pensieri e parole dati a chi, per restare in piedi, chiude gli occhi al presente e fa appello ai ricordi in un contesto pensato e costruito per annientare l'individuo, l'unico, l'uomo, con la U maiuscola, compresi i suoi ricordi. Parole per tutti voi che non potrete mai ascoltarle, per voi che non siete più con noi, per voi che siete morti, uccisi dallo Stato che prima vi ha incarcerato e poi, come un onnipotente Dio, vi ha massacrato. E aggiungo che quando un essere umano si mette uno straccio al collo perché è stanco di sopportare, non si può e non si deve parlare di suicidio, perché quello è e resta un omicidio. Un omicidio fatto e finito. Queste parole sono per chi di queste parole non se ne farà nulla, o forse se ne farà poco. Eppure lo so che per quanto la guardia potrà piegare la vostra schiena, è nella vostra persistente e inespugnabile dignità, con tutto ciò che ci gira intorno, che arde il fuoco. Voce dopo questo pezzo, un progetto che ci è piaciuto molto, per un altro contributo, come abbiamo anticipato già anche sui nostri canali, avremo il contributo di una compagna per poter parlare un po' con lei della situazione della psichiatria in generale, soprattutto nelle carceri.

E la lobotomia adesso è sostituita dagli psicofarmaci, però voglio dire, non è che è sempre una per gamba. Cui sì, però chiaramente con questa, appunto, questo noi fino adesso i cosiddetti sani, liberi e sani, vediamo trattati attraverso ricatti, no? Cioè, se tu non ti vaccini o non ti fai il tampone, le tue libertà di movimento sono limitatissime, oltre allo stigma dell'untore, no? E quindi ti assumi tutta la responsabilità di tutte le conseguenze che questa tua scelta sociale può provocare negli altri, per cui stiamo proprio, ecco, bisogna resistere. Esatto, a questa, diciamo, questo quadro così nero, che purtroppo non è che siamo noi che lo dipingiamo così, è così. Io direi però di lasciarci con l'idea che dobbiamo continuare a resistere, anche parlandone, anche lottando nella quotidianità, nel piccolo, dal piccolo al grande. Va bene. Ci sono. Ci siamo. Beh, tu sì, lo so. Lasciamoci così, assolutamente. Va bene, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. E ci sentiamo presto. Grazie e buona lotta. Ciao, un abbraccio a tutti e a tutti. Ciao. Bene, dopo questo intervento molto ampio, però una piacevolissima occasione per noi, io direi che è arrivato il momento di ascoltare un altro pezzo, e di nuovo riproponiamo un pezzo di Faida con il suo progetto di rap anticarcerario. C'è chi si crede saggio, uno stolto omologato in classe media. Gregge il mio collo, non fa per la catena. La schiena non si presta, la dignità si desta. Diritto di rivolta tutto quello che ci resta. Impero a sesta colpi in diretta mostra sca. In confronto al vostro fuoco resistenti sca. Che è privo di attitudine, viviamo di un'idea tra il martello e l'incudine. Lo so dovrei piegare, metallo da lavoro. Lo so spensierà, se fossi come loro. Ra non ci riesco, se sotto la forca da anime in me si diletta a dare fuoco alla mia sala. Ministero di grazia e giustizia sta fottendo l'anima. Il virus è l'idea, contamina, affino la mia crisi. Nel mondo dell'asfalto siamo rami coi germogli. Nel mondo dell'ideale arabesche e grovi. Nell'impero del volume sessori e bisbi. Volutamente stranieri in terra nativa. Contro l'ordine, la razza e l'ogio della follia. Non è un cino, un martirio, un re. Per l'impero sono come speaker e c'è. Bambino cattivo, omogenizzati di cervello in po'. Fratello sei cresciuto, coscienza fantasma. Ti sei fatto grande di cervello e papà te lo danno in blister. Libertà di spesa, libertà di resa, libertà di offesa. Libertà, uguaglianza, dignità, santa trinità della mia chiesa. Non vennero la visa, vista. E qui si affoga nei problemi, manca il cibo, manca la laterale già previsti dagli schemi. Di dominio e di controllo, il mondo affoga in questo bro. Non ossigena un protocollo. Torniamo in voce dopo quest'altro pezzo, grazie a Faida che ci ha segnalato il suo progetto che ci è piaciuto molto, e colgo l'occasione quindi per ricordare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici come tecnica questa definizione, che è possibile contattarci all'indirizzo mail battiture@protonmail.com oppure sulle pagine dei nostri social. Come io amo dire sempre, siamo credo la trasmissione radio con più pagine social al mondo. Infatti ci trovate su Facebook, su Twitter come Battiture2, su Instagram e su Mastodon. Forse ne ho dimenticato qualcuno, ma a breve anche TikTok, credo. E c'è anche un canale Telegram dal nome Battitore. Su questo canale cerchiamo, oltre di farvi recuperare i podcast della trasmissione e degli interventi, anche di far girare delle notizie che ci sembrano particolarmente interessanti riguardo il mondo delle carceri. Grazie a tutti e a tutte per la pazienza, e grazie ai due contributi che abbiamo avuto, che sono stati particolarmente interessanti. L'appuntamento è per mercoledì prossimo dalle 19 su www.radiasilo.it. Ciao. Se non vamo, fai sempre figlia e figliastro, ma se aggiungiamo le femme, no, con te non voglio venire, io per te non so niente, sono una perdita di tempo, ma se vuoi andare a cattena, dimmi che le chiavi. Señor.